sempre con Rock Legends su Radio RCS, l'onda veronese. Le frequenze le facciamo dire come tradizione ai nostri ospiti, in questo caso ai Teodasia. Dunque le frequenze sono 98.6 per la bassa veronese e zone della Lessinia, 101.5 per Verona città e rimanente provincia e 91.5 per la zona lago. Radio RCS la si può ascoltare anche attraverso lo streaming dal sito internet www.radiorcs.it. Dal prog rock passiamo all'hard rock americano degli anni 70, così vario per sonorità e spunti melodici. Prima canzone era del gruppo statunitense Heart, che dal disco di esordio Dreamboat Annie del 1976 ci hanno fatto ascoltare la canzone Crazy on You. Formazione guidata ancora oggi dalle sorelle Wilson, che ha saputo unire un sound di matrice zeppeliniana ad una particolare cura negli arrangiamenti. Che ne dite? A me piace tantissimo sto pezzo e a me in realtà piace moltissimo tutto il filone degli anni 70, hard rock, anche, anche anni 80, anche a Francesco. A lui piacciono i ritornelli. Tra l'altro molto bello anche il secondo disco degli Hurt. Ah beh, sicuramente. Upwards è il titolo del vostro primo disco, perché avete scelto di intitolarlo così? Vediamo. E dunque sì, upwards in realtà è un concetto, è una direzione e significa verso l'alto e quindi rappresenta il concept dell'album. L'idea che sottende questo album è appunto che nel caos della vita contemporanea, quello che e quella che è anche l'abbondanza e la ricchezza della vita contemporanea, quello che non abbiamo come strumento, non lo abbiamo più, è il senso della direzione. E quello che abbiamo individuato noi essere la direzione ideale è quella che porta appunto verso l'alto, ed è una direzione metaforica perché in alto si trova la luce, si trova una possibile guida e si trova un sole, il calore che emana il sole, e questo in realtà è anche il significato del nome del nostro gruppo, Teodasia. Teos significa Dio e Asia è un altro modo per dire est, e questo fa del nostro Dio dell'est il sole, ed è un sole sicuramente metaforico in quanto la sua presenza lassù in alto ci ricorda, ci fa da monito su quella che è la giusta direzione da intraprendere nella vita. Sempre rimanendo negli Stati Uniti, arriviamo ai Kansas. La band di Topeka esce nel 1977 con il disco Point of No Return, da cui ascoltiamo la intensa title track. Thank you. Musicisti di formazione classica che, ispirati dal progressive inglese, hanno saputo creare una miscela esplosiva ed unica che portano ancora oggi in tour. Che ne dite? Beh, si sentono sicuramente entrambe le influenze. Intendo l'influenza classica sicuramente, sia a livello strumentale che anche compositivo, e l'influenza degli anni 70 del progressive. Per certi versi mi ricordano addirittura i primi Toto, sì, se posso, sì, permettermi. Stavo per dire anch'io, sì. Anche se forse dovrei dire che i primi Toto... Esatto, sono quelli che si ispirano ai Kansas. Vostre ascolti musicali, quali sono e quanto influenzano la composizione delle canzoni? Beh, inizio io. Beh, io per l'appunto cado proprio a fagiolo, nel senso che le mie più grandi fonti di ispirazione sono per l'appunto i gruppi classiconi degli anni 70 e in particolare anche quelli prog. Per esempio, il mio gruppo preferito sono i Rush. Poi, vabbè, ovviamente le Zeppelin, Pink Floyd, come a non finire, e poi parte più metal con i grandi classici anche lì, Metallica, Pantera, eccetera. Altri? Io infatti, come Fox, parto subito da Metallica, Pantera, quella è tutta la mia scuola e ho sempre ascoltato il metal. E... ecco la musica di Francesco che ho cominciato ad aprire un po' e ad ascoltare un po' queste musiche qua, un po' più prog, un po' più, anche quelle un po' più nordiche, per stare più nel moderno, diciamo. Certo. Beh, io posso parlare di quelle che sono le mie influenze sulla voce, perché diciamo che ascolto tantissimo Sarah Brightman, che è stata la cantante originale, no, del Fantasma dell'Opera, Christine. Che ha collaborato anche con Bocelli, insomma, ecco. Esatto, la esatto, ha fatto la versione in inglese, no, di Con te partirò, certo. Time to say goodbye. Vabbè, che ha appunto queste tonalità cristalline. E dall'altra parte c'è Jessica Harper, che in realtà è un'attrice americana, però ha questo colore molto caldo e molto basso e molto ricco nella voce, e tendo a unire le due cose perché sono entrambe parte di me. Però diciamo che le mie influenze musicali più che altro le attingo da Francesco, perché è lui il nostro compositore, quindi devo rifarmi. Passiamo la parola a Francesco, insomma, sì. Ecco. Eh? Passiamo la parola a te, ah, velocemente. Sì, beh, se anche Michele vuole dire prima i suoi gusti. Prima. Velocemente. Vabbè, ok, velocemente. Allora, no, niente. Io sono cresciuto appunto con musica classica a parte di mia madre, perché ha due diplomi in conservatorio, e Beatles e Rolling Stones da parte di mio padre, perché è rock and roll. Quindi ho unito queste due cose e io all'età di 15-16 anni, quando ho iniziato a suonare, praticamente ascoltavo... Scusami, fa ridere. Quando ho iniziato di 16 anni, appunto, ho iniziato ad ascoltare i Nightwish, che unisce colonne sonore, metal e tutto quanto. Da là il progressive, da là le colonne sonore, da là tutto. È arrivato il sound di Teodosia. Vai. Sì, io ho una visione abbastanza 360. Diciamo che comunque ho cominciato con gli Iron Maiden. Iron Maiden, che uniscono cattiveria pura a melodie, ed è una cosa che nel metal non c'è, a parte loro, insomma. Successivamente i Nightwish. Sono arrivati Nightwish e mi hanno influenzato, oltre a loro, musica celtica. Ok, la seconda parte si chiude con i Journey, band simbolo della OR Stelle e Strisce tra gli anni 70 ed 80. Escono nel 1981 con il disco Escape e contiene uno dei loro più grandi classici dal titolo Don't Stop Believing. Nella terza e quarta parte ascolteremo 6 brani del disco di Teodosia dal titolo Upwards. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume, for a smile they can share the